الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو. بونجورنو فلسطين. 111ª trasmissione su Radio Wombat. Chi è che comanda in Italia? Israele, se non lo sapete. Si è svolta a Firenze nei giorni scorsi una passeggiata di donne e uomini sandwich che con il cartello davanti e uno dietro protestavano per la censura intervenuta a Torino che ha impedito la proiezione di un'informazione dinamica anti-apartheid posta alle pensiline degli autobus. Informazione come rilevata dal rapporto di Amnesty International pubblicato quest'anno. Tale informazione pubblicitaria si sarebbe dovuta ripetere in maniera maggiormente estesa anche a Milano nei prossimi giorni. La campagna di informazione su questo importante report di Amnesty International, iniziata a Firenze a fine settembre, aveva suscitato le ire del console onorario di Israele e dell'assessora comunale al welfare Sara Funaro, che si erano espressi a mezzo stampa per condannare l'iniziativa. A Torino i lunghi artigli di Israele hanno ottenuto addirittura un fatto censorio, facendo interrompere e ritirare l'informazione pubblicitaria sul rapporto di Amnesty, informazione organizzata, pagata e curata da Invicta Palestina. A Milano è scattata addirittura la censura preventiva e l'iniziativa non verrà realizzata. Due parole su Invicta Palestina. Invicta Palestina nasce in Calabria nel 2010 come centro di documentazione. Invicta Palestina non è solo un rinomato sito dove si possono trovare tradotti in italiano articoli di stampa dal palestinese o internazionale. Invicta cura una pagina Facebook e un blog. Oltre alle traduzioni da varie lingue, compreso l'arabo, e alla divulgazione, Invicta si occupa di produrre e sottotitolare video e filmati. La redazione di Invicta Palestina si avvale di collaboratori dal sud al nord, dalla Puglia a Roma, da Napoli a Brescia, Bergamo, oltre che a Torino. A 30.000 followers e gli articoli pubblicati sul sito vengono frequentemente ripubblicati, tradotti su altri siti. Per quanto riguarda il tema chi è che comanda in Italia, Israele se non lo sapete, in particolare sulla vicenda di censura a Torino, parleremo nella trasmissione di oggi con Rosario Citriniti di Invicta Palestina, il quale a Torino ha seguito personalmente sul luogo la vicenda. Tutto questo subito dopo la consueta rassegna stampa e un breve intervallo musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo la rassegna stampa con un articolo pubblicato su Infopal dal titolo «Israele non è mai stata una democrazia. Perché allora l'Occidente si lamenta della fine di uno Stato liberale?» L'autore, Ramzi Baroud, mette in evidenza l'ipocrisia dell'Occidente a partire dagli Stati Uniti in merito alle preoccupazioni sulla svolta ultranazionalista e fascista del nuovo governo israeliano. Eppure gli Stati Uniti sapevano benissimo, anche prima della partecipazione a questo governo, chi fosse Itamar Ben-Gvir, il nuovo ministro della sicurezza nazionale, perché comunque nel 2007 era stato condannato da un tribunale israeliano per aver fornito sostegno ad una organizzazione terroristica e incitato al razzismo. Così come sembra strano che non sapessero chi è Aryeh Deri, il nuovo ministro dell'interno, e cioè uno che è stato condannato per frode fiscale e che ha scontato nel 2000 una pena detentiva quando era ministro per gli interni. E così anche sembra strano che non conoscessero Smotrich, nuovo ministro delle finanze, il cui razzismo antipalestinese ha dominato la sua politica per anni. Onde per cui ci risulta davvero ipocrita questo timore degli Stati Uniti e dell'Occidente in generale, che hanno sempre sostenuto l'estremismo di tutti i governi israeliani che si sono succeduti negli anni fino a quello attuale, che rappresenta, ahinoi, la logica conseguenza. Sempre per rimanere in tema, ecco la dimostrazione pratica di questo timore espresso dall'Occidente nell'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano dal titolo Israele, provocazione del ministro di estrema destra Ben-Gvir, visita la spianata delle moschee, condanne internazionali anche degli Stati Uniti. Si riporta la notizia della passeggiata sulla spianata delle moschee di Gerusalemme del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, scortato da decine di agenti, che ha accompagnato questa provocazione con una dichiarazione. Il Monte del Tempio, così come lo chiamano gli ebrei, è il luogo più importante per il popolo di Israele. Questo grave atto da parte del ministro è stato condannato non solo dai vertici delle autorità palestinesi e da quelli di Hamas, ma anche dal ministro degli esteri della Giordania, che considera questa visita una violazione della sacralità. Così come dalla Turchia, che teme una escalation della violenza nella regione, così come dagli Emirati Arabi, che pur avendo sottoscritto gli accordi di Abramo nel 2020, hanno condannato l'assalto, nonché infine dagli Stati Uniti, che hanno definito tale azione come inaccettabile. Su Pagine Esteri, Michele Giorgio ci racconta della scarcerazione di Karim Yunis, che torna libero dopo 40 anni di detenzione. Appena uscito, la prima cosa che ha fatto è stata andare a far visita alla tomba della madre scomparsa pochi mesi fa. Yunis è sempre stato negli elenchi dei detenuti politici palestinesi da liberare in base agli accordi con Israele per lo scambio di prigionieri. Ma Israele si è sempre rifiutata di scarcerarlo. E anzi, considerando che ha la cittadinanza israeliana, se la richiesta sarà accolta dai giudici, il neo ministro Ari Dehri gliela revocherà. Nell'articolo pubblicato su Zeitung, dal titolo 5 vittorie del BDS del 2022 che potreste esservi perse, vengono riportate alcune vittorie del movimento negli Stati Uniti. La prima è quella che ha visto la squadra di football statunitense Oakland Roots lasciare Puma come sponsor. Poi c'è stato il dietro front del gruppo musicale Big Thief, che ha annullato i suoi concerti a Tel Aviv. C'è stata poi la presa di posizione del comitato di redazione del Harvard Crimson, il giornale studentesco dell'Università di Harvard, che in un editoriale ha dichiarato apertamente: appoggiamo il movimento per il boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. C'è stata poi una notevole crescita di consapevolezza del movimento BDS sia tra gli elettori che tra i deputati del Partito Democratico statunitense. E soprattutto, secondo dei sondaggi forniti da istituti di ricerca, è cresciuto il numero degli elettori che, anche se non hanno sentito parlare mai del BDS, hanno affermato di appoggiare la soluzione di uno Stato unico nella regione. Ultima poi è stata la decisione della General Mills, multinazionale nel settore alimentare, che ha disinvestito la sua quota del 60% in una consociata israeliana. Ovviamente il comunicato diffuso ha parlato di scelte strategiche. In realtà sappiamo che da almeno 2 anni questa società era stata presa di mira dall'American Friends Service Committee, organizzazione legata alla Chiesa Quacchera, in quanto alcuni prodotti della Pillsbury venivano prodotti in una colonia israeliana. Insomma, questa è la dimostrazione di quanto importante sia la campagna BDS per scardinare lo stato di apartheid israeliano. Passiamo adesso all'articolo dal titolo Un'informazione per i giudici dell'AIA. Quella di Israele è annessione, non occupazione temporanea, pubblicato su Invicta Palestina. L'autrice, Noa Landau, invita le Nazioni Unite a non sprecare 2 anni di tempo, cioè il periodo necessario per concludere il procedimento, per farsi dire dalla Corte Penale Internazionale se il controllo di Israele su territori possa essere ancora definito occupazione temporanea, perché la realtà ormai è sotto gli occhi di tutti. Si tratta infatti di annessione, e questo viene evidenziato anche dalle linee guida delle politiche del nuovo governo appena insediato, che già dal principio stabilisce che il popolo ebraico ha un diritto esclusivo e inalienabile sulla terra, sull'intera terra di Israele. E considerando che all'articolo 118 dell'accordo di coalizione tra il partito del Likud e il partito del sionismo religioso si stabilisce che il primo ministro guiderà una politica mediante la quale la sovranità del popolo israeliano sarà applicata in Giudea e Samaria, significa che si può parlare tranquillamente di annessione, visto che la parola ribonut o sovranità, espressa in tale dichiarazione, in ebraico vuol dire appunto annessione. Concludiamo questa rassegna stampa con un'ultima notizia pubblicata su Zeitung. Vi ricordate di Liad al-Halak? Forse no. Era un ragazzo affetto da autismo che nel maggio 2020 è stato assassinato da un agente di polizia di frontiera. Per quell'omicidio Netanyahu arrivò addirittura a chiedere scusa alla famiglia. Ecco, il poliziotto che l'ha ucciso, nonostante sia ancora sotto processo, è stato promosso. E con questo è tutto, restituisco la linea allo studio. Prima di passare all'intervista con Rosario Citriniti di Invicta Palestina, vi informiamo che il 24 gennaio, dalle 15 alle 19, presso l'auditorium del Consiglio regionale toscano in via Cavour 4 a Firenze, si terrà un importante convegno sulla Palestina dal titolo «La difesa dei diritti umani in Palestina», promosso dall'assessora alla cooperazione internazionale Serena Spinelli, con la collaborazione delle associazioni Amicizia Italo-Palestinese, Arci Firenze, Assopace Palestina, Ampi della Toscana, Cospe, Giuristi Democratici. Il convegno si aprirà con i saluti del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del Presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani. Presenterà l'incontro e coordinerà il convegno Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Al convegno sarà presente anche l'ambasciatrice di Palestina, Sua Eminenza Abir Odeh. Si terranno interventi di Triestino Mariniello, professore associato presso la Liverpool John Morris University e rappresentante legale delle vittime di Gaza presso la Corte Penale Internazionale. Fausto Gianelli, membro dell'Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici, esperto di diritto internazionale. E in collegamento dalla Palestina ci sarà Sarit Michel, rappresentante di B'Tselem, centro di informazione israeliano per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. E sempre con il collegamento online dalla Palestina, Shawan Jabarin, direttore dell'organizzazione palestinese Al-Aq di Ramallah, che difende i diritti nei territori palestinesi occupati. Troverete il manifesto del convegno con tutte le indicazioni sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi su Radio Wombat. Nella trasmissione di oggi ci occupiamo di censura. Censura in Italia, su quanto avviene in Palestina e sul comportamento di Israele. Il fatto a cui ci riferiamo, in particolare, è quanto è avvenuto a Torino nel corso del periodo natalizio. Ne parliamo quindi con Rosario Citriniti, di Invicta Palestina, che ha seguito in prima persona questa vicenda. Buongiorno Rosario, puoi riassumerci di che cosa si tratta e che cosa è successo a Torino in questi giorni, cioè nei giorni scorsi, nei giorni delle festività? Ciao, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che noi come Invicta Palestina ci occupiamo prevalentemente di informazione. Siamo a contatto con molte associazioni che si occupano e seguono tutta la quotidianità dell'occupazione in Palestina e quindi sicuramente siamo sensibili agli avvenimenti quotidiani. Quello più importante di questi tempi, di questi ultimi tempi, è che in Palestina si riscontra questa situazione di apartheid, non tanto denunciata da noi come sito di informazione, ma dagli stessi palestinesi, dalle stesse associazioni israeliane messe anche fuori legge e dagli stessi intellettuali del Sudafrica che visitando la Palestina spesso scrivono e ci raccontano di vivere una situazione di apartheid peggio di quella che era in qualche modo presente in Sudafrica. Quindi abbiamo puntato la nostra attenzione su questa situazione, abbiamo detto cerchiamo i canali giusti per poterla denunciare. I canali giusti chiaramente non si inventano, ma si cercano fra quelli già sperimentati. E abbiamo visto che negli Stati Uniti, oppure soprattutto diciamo in Europa, in Inghilterra in modo particolare, queste denunce sono fatte con quelle che chiamano pubblicità dinamica. Molto spesso si veicolano questi messaggi con grafica che viaggia insieme ai mezzi pubblici, quindi molte pull. In questo caso l'argomento sarebbe l'apartheid, cioè l'apartheid che poi... Una denuncia specifica di un aspetto di questa tragedia che si consuma in Medio Oriente, uno dei tanti aspetti. Quindi in modo particolare siamo partiti con la denuncia dell'apartheid, ma senza inventarci niente di nuovo, ma vedendo quello che è stato fatto in altri paesi, quindi negli Stati Uniti, come dicevo prima, in Inghilterra, come stavo raccontando, e poi a noi vicino, partendo dall'esperienza di Firenze, dove hanno scelto di raccontare questa apartheid attraverso manifesti con una grafica molto semplice e molto immediata, con manifesti affissi nelle pensiline dei pullman. Abbiamo cercato di fare la stessa cosa a Torino. Per farla a Torino abbiamo incominciato a contattare diverse agenzie pubblicitarie. E qui ci siamo accorti poco per volta, giorno dopo giorno, che le nostre libertà sono molto limitate e spesso orientate, cioè nel senso che noi possiamo fare una denuncia molto, molto forte sull'Ucraina, sull'occupazione russa e sui bombardamenti. Possiamo parlare e denunciare Assad con tutto quello che è successo in Siria. Però alcune denunce non si possono fare, soprattutto quando c'è in qualche modo coinvolto Israele. Per Ecco, cui. questo come, e da questo, e questo come, come lo, questa conclusione come arrivate? Che cosa è successo in particolare? Noi ci siamo rivolti innanzitutto, diciamo, abbiamo visto quali erano a Torino. Le agenzie che si occupano di pubblicità. E una prima agenzia interpellata già qualche anno fa, per mandare un preventivo, aveva tardato moltissimo e poi ci avevano fatto capire che alcune cose si possono dire e altre è meglio di no. Quest'anno, a distanza di un anno e mezzo, diciamo a distanza di 2 anni, abbiamo interpellato la stessa agenzia, e non è il caso neanche di fare il nome perché poi si va nel contenzioso, eccetera, eccetera. E questa agenzia si è dichiarata disponibile in qualche modo a diffondere il nostro messaggio su alcuni oggetti che si chiamano MUPI, che sono quei totem verticali che sono installati in alcune città, in alcune piazze e soprattutto vicino alle fermate della metropolitana. Chiaramente a un'offerta di pubblicità su questi MUPI, un gruppo di amici abbiamo fatto un giro in bicicletta e abbiamo scoperto che erano tutte location poco visibili, con lo scarso transito, quindi una specie di serie B, C, D, E della pubblicità, cioè nel senso che se un'azienda importante avesse chiesto visibilità attraverso questi MUPI, sicuramente non avrebbero proposto le stesse stazioni che hanno proposto a noi. Praticamente facendo un giro, ce n'era persino una vicino alla Biblioteca Nazionale di Torino, molto vicina, molto importante come posto, ma con la biblioteca in ristrutturazione e questo MUPI completamente coperto. Quindi avremmo dovuto spendere in una pubblicità invisibile. Lasciata questa agenzia, ne abbiamo scelto una seconda e qui possiamo dire il nome perché ci sono anche i contratti sottoscritti. Questa agenzia è la ABI. Andando in giro per Torino ci sono molti spazi vuoti dove c'è scritto: se vuoi questo spazio, chiama noi e noi ti daremo lo spazio disponibile. Ho avuto diversi contatti con un rappresentante di questa agenzia pubblicitaria e la prima cosa che ho fatto presente sono stato io e non loro a dire: ma si tratta di un messaggio politico, di un messaggio che non è inventato da noi, ma è in qualche modo è verificato sul posto ed è denunciato da Amnesty International. Ecco, a queste parole il rappresentante si è illuminato dicendo: vabbè, non è una cosa che può compromettere, gli spazi sono nostri, possiamo fare un contratto e quindi sicuramente ne parleremo con i nostri avvocati prima perché ogni messaggio viene visionato. Abbiamo anche qualcuno iscritto all'ordine dei giornalisti, per cui si può vedere se va contro alcune nostre assicurazioni. E dopo qualche giorno si è presentato col contratto già stilato, dove mancava solo la mia firma, o la firma, diciamo, di Invicta Palestina o dell'associazione che si faceva carico del pagamento praticamente della pubblicità. L'assicurazione era: gli spazi sono nostri, poi è una pubblicità temporanea, quindi non è una pubblicità fissa. Possiamo disporre noi perché le regole in qualche modo sono tutte soddisfatte. Aspettiamo il 21 di dicembre. Al mattino mi arriva l'SMS di questa del rappresentante e mi dice ok. Gli schermi sono tutti online, si può andare a vedere come funzionano. Faccio il giro veloce in bicicletta per Torino, faccio le prime foto e mi accorgo che uno spazio era oscurato. Ho subito chiamato il rappresentante, il quale si è scusato, ha detto che quello spazio effettivamente è oscurato perché lo schermo non funziona. E a riprova di quanto la cosa andava bene, il giorno dopo, oltre a riparare quello schermo, ce ne hanno regalato un secondo in più, quasi per scusarsi dal contrattempo che c'era stato. Quindi noi, con un contratto di 10 schermi in 10 pensiline di Torino, ne abbiamo avuto uno in omaggio subito sul contratto e un secondo in omaggio per ringraziarci della pazienza che dimostrata durante questa installazione. Quindi noi eravamo ben felici di avere 12 fari accesi sulla città. Bene, allora a questo punto fine della prima parte. Fino adesso tutte le cose sono andate bene. Adesso nella seconda parte vediamo che cosa è successo dopo. ارسم لي دار بتواقي كبار بشرح متربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام برنص جدي فوق كتفك كل جهاد داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك أرسم لي بحر يكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفارق دموعي مال الممات تحرق ارسم لي احباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت ودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كي شمعة دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهاد داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك Riprendiamo con la seconda parte della trasmissione, sempre con Rosario Citriniti di Invicta Palestina, che ci racconterà appunto diciamo, come si sono svolti i fatti poi per arrivare, diciamo, alla censura. Il rapporto con questa agenzia era buono, gli hanno addirittura offerto due schermi a LED in omaggio, e poi cosa è successo? Valutando quello che è successo, ci siamo subito resi conto che l'obiettivo era centrato al 100%. Cioè, nel senso che quando si è inefficaci oppure quando si parla o quando si organizza qualche evento, sicuramente non siamo mai soli, ma siamo sempre in qualche modo monitorati dalla parte, diciamo, contraria a una eventuale soluzione di questo problema che assilia la Palestina da oltre 80 anni. Quindi, senza fare nome, siamo continuamente monitorati. Con i manifesti abbiamo visto che l'obiettivo era centrato, perché in tutto il mondo, grazie alla collaborazione fra le varie associazioni e soprattutto con l'Associazione di Firenze e soprattutto con Angela Mori, che in qualche modo ci ha dato una mano come agenzia di stampa, come nostra interfaccia verso il mondo esterno, abbiamo scoperto che nel giro di poche ore il mondo parlava di apartheid. Quindi dall'Indonesia agli stessi paesi arabi, agli stessi siti con testate online in inglese, dappertutto c'erano queste nostre foto scattate a Torino, con Torino di giorno, Torino di notte, e c'era persino la ruota dell'apartheid. Quindi il periodo di Natale molto frequentato da turisti, c'era persino un nostro percorso guidato per fare il giro delle stazioni e approfondire il discorso dell'apartheid. Approfondimento che si poteva fare anche fotografando diverse Q-code che erano sul nostro QR code che erano sul nostro manifesto. Ci siamo subito accorti di una situazione molto forte di denuncia da parte dei troll filo israeliani, perché le nostre pagine Facebook sono state subito invase da profili, alcuni veri e altri falsi, che incominciavano a disturbare la pagina, quindi a fuorviare il discorso, cercando di portarlo fuori dal discorso dell'apartheid, fuori dal discorso denunciato, ma come si fa normalmente in queste situazioni di disturbo, cercare di sviare il discorso. Provocare i nostri lettori, farli reagire in modo pesante, soprattutto portarli a dire in qualche modo che sono gli ebrei e non che è lo Stato israeliano che in qualche modo opera e è artefice di questa tragedia, e quindi diciamo in qualche modo portare Facebook a chiudere la nostra pagina. Facebook da parte sua, io faccio un confronto un pochino pesante, però ci credo e la denuncia penso che sia doverosa. Noi assistiamo tutti i giorni a provocazioni in Palestina, provocazioni effettuate dai coloni sui palestinesi, provocazioni con rotture delle automobili, provocazioni mentre vanno a raccogliere le olive, provocazioni chiudendo i rubinetti dell'acqua per evitare persino il consumo dell'acqua potabile, e molto spesso quando ci sono questi atti vandalici da parte dei coloni verso i palestinesi, c'è sempre o l'esercito neutrale oppure l'esercito che interviene a protezione dei coloni, mentre proprio compiono questi atti illegali. E noi su Facebook abbiamo verificato esattamente la stessa cosa. Abbiamo sponsorizzato dei post che per essere accettati in alcuni casi abbiamo aspettato anche 5 giorni. Cioè noi mettiamo un articolo su Facebook, paghiamo, cioè si stabilisce una cifra, un budget per l'inserzione che mediamente sono stati intorno ai 15-20 euro, e il messaggio di Facebook è il messaggio è in osservazione, praticamente ci stiamo pensando. E alcune valutazioni sono durate anche una settimana. Alcuni articoli sono stati bloccati dopo essere stati accettati, cioè alcuni articoli non sono stati tolti dal social, ma la nostra sponsorizzazione è stata bloccata solo dopo poche ore. Dopodiché, noi sappiamo benissimo che qualsiasi utente Facebook, se interviene in modo pesante contro Israele viene subito bloccato, e noi di tutti questi troll che si sono schierati contro la Palestina, non uno bloccato da Facebook. Li abbiamo bloccati noi a uno e ne abbiamo bloccati almeno una ventina, proprio per cercare di mantenere una discussione corretta sul tema fondamentale che era quello dell'apartheid. E e cercando di togliere e di bloccare tutti coloro che cercavano di fuorviare la discussione per portarla in termini di violenza e quindi dare a Facebook gli strumenti per dire questa pagina semina odio e quindi la chiudiamo. Quindi quando abbiamo visto questa situazione con queste decine di troll che sono dati appuntamento sulla nostra pagina, abbiamo capito che effettivamente l'obiettivo era centrato, cioè la nostra campagna era efficace, il nostro messaggio era importante e lo strumento scelto, quello della pensilina col messaggio rivolto ai cittadini, è efficace come non mai. Certo, no, guarda, questo che ci stai dicendo è di importanza fondamentale perché sono considerazioni che noi qui non abbiamo mai fatto e occorre che ne parliamo ben bene all'interno delle nostre organizzazioni. Allora, Vai. considerate che vi do solo questa informazione, no? Se è un esperimento che avevo fatto anche in passato. Una pagina che racconta la Palestina da noi inizialmente raggiungeva anche 50-60 mila utenti, poi poco per volta si sono ridotte, gli utenti raggiunti sempre meno, fino ad avere una media di 2-3 mila utenti. Un periodo che risale a 5-6 anni fa avevo fatto sulla pagina personale un articoletto su un gatto che era mancato, solo col titolo prima c'era, adesso non c'è più, riferito a un gatto ed ero arrivato anche a 60 mila presenze. Per quanto riguarda, la nostra pagina sulla Palestina, in Wikida Palestina abbiamo visto che ci sono le visite appunto dei troll per disturbare la discussione, ma c'è anche una scarsa diffusione dal social stesso. E noi ultimamente, proprio in riferimento ai manifesti pubblicati, abbiamo sponsorizzato 4 articoli per un totale di 70 euro e con 70 euro siamo riusciti a promuovere questi 4 articoli che hanno raggiunto complessivamente circa 50 mila utenti. Quindi c'è anche una censura che spesso non si considera, perché noi quando mettiamo un articolo su Facebook, pensiamo di mettere quell'articolo su una finestra aperta sul mondo. Non è così. Facebook ha alcuni algoritmi molto precisi, alcune notizie girano, altre no. Ma se andate sulla nostra pagina, c'è un altro esempio che vi faccio ma proprio velocemente. C'è un video di una ragazza palestinese, di una bambina, che assiste alla distruzione della propria casa a opera del padre, costretto dalle autorità israeliane. Quindi è una forma di tortura. Una ragazza che vede suo padre distruggere la propria casa. Questo video l'abbiamo condiviso e non ha raggiunto più di 100-150 utenti. Dopodiché lo stesso video l'abbiamo scaricato dal sito originale. L'abbiamo riproposto e siamo riusciti ad arrivare a 1000-1500 utenti. Ma il pedone che inciampa nel guinzaglio di un cane, cade per terra e si rompe il naso, cioè senza nessuna sponsorizzazione, raggiunge sicuramente 50-100 mila persone. Quindi c'è una censura evidente, una censura operata in qualche modo anche con una presa di posizione dal censore, e poi c'è quella invece gratuita che viene fatta e noi ne siamo quasi inconsapevoli. Utilizzate prevalentemente Facebook piuttosto che il sito per, diciamo, raccogliere questi dati, diciamo, di accesso alle informazioni. Diciamo, noi abbiamo un nostro sito con un blog dove carichiamo tutti gli articoli che traduciamo dai vari giornali. Quindi, una nostra lista di utente che è di circa 2.000 persone e periodicamente con una nostra comunicazione le avvisiamo degli articoli che sono stati tradotti e sono disponibili sulla pagina. È chiaro che il social è più immediato perché qualsiasi notizia, qualsiasi variazione, qualsiasi urgenza dovrebbe in teoria raggiungere tutte le persone interessate. Così non è perché sappiamo che gli algoritmi possono essere modificati e quando arriva un messaggio particolare può subire un algoritmo che ne limita la diffusione. In questo caso, diciamo, ne limita la diffusione, che in parole povere significa un grado più o meno elevato di censura. Ecco, ci hai parlato, Rosario, della censura sui social. Adesso arriviamo invece alla censura che ha colpito voi per quanto riguarda i manifesti, cioè la pubblicità sulle pensiline. Che cosa ci racconti a questo proposito? Ma allora, senza nessuna comunicazione che in qualche modo ci avvisava di questa censura imminente, un mattino arriva una lettera che abbiamo aperto casualmente, perché normalmente, essendo in regola con i pagamenti, avendo concordato tutto, davamo per scontato che ormai l'iniziativa viaggiava per conto suo, no? Ci arriva questa lettera, ve la leggo. Gentile cliente, in relazione al contratto sottoscritto nello scorso mese di novembre per l'esposizione su 10 schermi LED sulle nostre pensiline digitali di Torino, siamo spiacenti di comunicare che la campagna non potrà essere eseguita. Cioè qui, piuttosto che dire eseguita, era giusto scrivere non potrà continuare, perché la campagna era già in corso. Continuo con la lettura. All'atto della sottoscrizione non abbiamo tenuto conto, purtroppo, del fatto che messaggi di connotazione politica non sono ammessi nell'ambito della nostra convenzione con l'azienda Trasporti GTT e l'azienda che gestisce i trasporti torinesi. Dice, non sono ammesse nell'ambito della nostra convenzione con l'azienda GTT, proprietaria degli impianti, e quindi ci scusiamo per l'accaduto e provvederemo nei prossimi giorni allo storno dei documenti contabili emessi, al rimborso dell'acconto versato e alla contestuale cancellazione del contratto. È chiaro che, ricevuta questa lettera, automaticamente ho fatto il numero dell'agente. E l'agente, con un filo di voce, mi dice: anch'io sono sorpreso, ma mi hanno detto che c'è stato l'intervento di un grosso personaggio politico. Allora io ho insistito, ma un grosso personaggio legato a un partito. Provo a chiedere approfondimenti. Mi chiama dopo 10 minuti, no, fa un grosso personaggio, non di un partito, ma un grosso personaggio, grosso, grosso, grosso. Tant'è che ha agito praticamente sui proprietari degli spazi, quindi non ha agito su di noi come azienda di pubblicità Avid, ha agito su GTT a Torino e su Mondadori a Milano, dettando le sue regole, e quindi queste due GTT da una parte e Mondadori dall'altra ci hanno scritto immediatamente, diciamo, riscoprendo quel punto del contratto che appunto hanno sottolineato nella lettera, che il messaggio era politico e non sociale. Scusa se ti interrompo, Rosario. Hai detto Mondadori di Milano. Quindi, perché la campagna, oltre dopo Torino, doveva proseguire a Milano. Ecco perché sono intervenuti anche su Milano. Esatto, la campagna era nata a Torino, a Milano sarebbe stato, il costo della campagna di Torino era all'incirca 1.500 euro più IVA. A Milano, una città molto più costosa, e con la stessa cifra all'incirca, invece di avere 12 penseline, avremmo avuto il grande schermo nella galleria Mondadori. Uno schermo costituito da 5 pannelli, ogni pannello 4 metri per 2 di altezza. Quindi noi avremmo avuto un'esposizione su uno schermo 20 metri per 2. Tant'è che il nostro grafico si era messo subito all'opera per distribuire lo stesso messaggio intanto su uno schermo orizzontale anziché in verticale come il manifesto, e su 20 metri anziché il metro per due di altezza dei nostri manifesti. Quindi la censura è stata in corso per quanto riguarda Torino, e preventiva per Milano, della quale noi non avevamo ancora divulgato neanche il messaggio, quindi nessuno sapeva di Milano, perché era tenuto segreto come per Torino, per uscire in modo, diciamo, improvviso, e in qualche modo cercare in questo modo di anticipare eventuali azioni di censura. E scusa se ti interrompo, e infatti poi dopo su Milano, anche per quanto riguarda la campagna di Milano, vi è arrivata una email in cui si diceva che la campagna di Milano non sarebbe mai partita. Sì, è arrivata una stessa mail, che non sto a leggerla perché è sullo stesso tono, dicendo: quella di Torino non possiamo proseguirla, e quella di Milano non possiamo metterla in pratica, perché questo grande personaggio, questo importante personaggio, questo influente personaggio, chiaramente mi ha detto anche da che parte politica sta, da che paese proviene, soprattutto non da un partito italiano, no? Ma mi ha detto anche il paese, che però non posso pubblicamente dirlo perché chiaramente non ho nessuna prova scritta e non vorrei poi essere denunciato per diffamazione dal personaggio importante che di solito opera censura in Italia, e molto, molto probabilmente potrebbe essere lo stesso che l'ha effettuata a Firenze. Beh, a Firenze non c'è stata una vera e propria censura, perché non è stato fatto il nome di nessun personaggio particolarmente grande. Però sappiamo dalla stampa, e in stampa ci sono state varie proteste appunto sull'esposizione di questi manifesti, e sappiamo che il console onorario, che è console non solo per la Toscana ma anche per la Lombardia e per l'Emilia Romagna, se non erro, non faccio il nome ma tutti lo conoscono, però è un toscano, non è un personaggio internazionale, il quale insomma ha scritto vari articoli, ecco, sì, e ha praticamente dato ha concesso l'azienda di ritardare l'esposizione, e poi insomma, ecco. Ma dunque, per quanto riguarda Torino, non abbiamo avuto notizie o nomi precisi. È chiaro che non può essere stato un giornalista o un esponente torinese, perché in qualche modo si sarebbe anche fatto propaganda se era necessario, ma è stata una censura attuata in modo pesante, tant'è che la domanda che mi sono fatto subito è: chi comanda a Torino, chi comanda in Italia? Perché poi alla fine noi siamo liberi, come diceva Celestini in un suo spettacolo di qualche anno fa, siamo solo pronti a masticare la caramella, ma non possiamo andare al di là di certi parametri, perché non siamo padroni della nostra sovranità, ma neanche minima, cioè nel senso che non dobbiamo disturbare assolutamente i manovratori, anche se io prima ho detto grande personaggio, ma alla fine miseri personaggi, perché in questo modo fanno anche protraggono all'infinito problemi risolvibili, e con una sorta di campanilismo diciamo impediscono di risolvere problemi umanitari che in qualche modo danneggiano il loro stesso paese. Volevo fare anche questa domanda: sulla stampa di Torino è uscito qualche articolo che riguardava questa censura o questo argomento in generale o no? Ma nessuno ne ha parlato, ne hanno parlato soprattutto giornali indipendenti oppure testate online. Ha fatto un bellissimo tweet, l'ha scritto Tommaso Montanari, poi si è risentito molto anche Gianluca Costantini, che ci aveva dato il disegno per il manifesto, ne ha parlato qualche centro sociale. Il mainstream chiaramente non è dalla parte delle popolazioni sofferenti, non è dalla parte di chi si vede demolita la casa, oppure non è dalla parte degli scolari che vedono distrutta la loro scuola. Noi siamo adesso per l'Iran, sicuramente per le situazioni atroci che accadono in questo paese, ma gli stessi paesi che affamano e che hanno mire sul petrolio sono quelli che adesso sono paladini dei diritti umani, perché i diritti umani, come diceva un vecchio compagno filo palestinese che è mancato qualche anno fa, Stefano Chiarini, quella che vige nell'ambito dell'informazione ormai è quella dei due pesi e due misure, cioè noi con la Palestina, oltre a tutte le sofferenze che ci sono dettate da questa situazione di apartheid e di furto continuo di terre, abbiamo anche la complicità dei media, in qualche modo o si autocensurano oppure censurano qualsiasi notizia che in qualche modo potrebbe portare a una soluzione di questa situazione tragica che si consuma in quell'angolo di Medio Oriente che abbiamo appena finito di festeggiare con presepe, arrivo dei Re Magi, eccetera, eccetera. من قلبي دمار ونار فرح كبير بالصوت اللي بدي اقول بس الصوت صغير يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت Ora, Invicta Palestina è una realtà consistente e ben documentata e capace anche di grandi di potenzialità informative. Ecco, a seguito di questa vicenda, voi adesso cosa intendete fare? Avete la considerate conclusa oppure intendete insistere sulla vicenda? Ma sicuramente non andremo per via legale, perché la legalità che conosciamo non dà ragione a chi ha ragione da vendere. Cioè, la legalità dà ragione agli avvocati più ben pagati, a chi ha potere politico da distribuire. Quindi diciamo, sicuramente è una situazione che non ci porta a credere tanto nella giustizia, perché è amputata ancora prima di essere in qualche modo verificata solo su situazioni molto semplici, no? Se noi assistiamo alla rimozione di un messaggio di Amnesty nella pace completa dei vari giornalisti cittadini e anche nazionale, non possiamo pretendere di avere ragioni a livello legale. Quindi sicuramente non ce la prenderemo con l'agenzia, che da parte sua ci dà il reso di quanto pagato, quindi praticamente noi non abbiamo economicamente nessuna perdita da rivendicare. Quella che si dovrebbe rivendicare è la mancanza di cittadinanza, cioè il cittadino offeso, il cittadino umiliato, il cittadino che non ha potere, il cittadino che può giocare solo a carte oppure solo ripetere il mantra delle notizie che vengono ripetute alla televisione oppure andare a vedersi i vari spettacoli serali dove fanno parlare tutti nella confusione più assoluta senza fare denunce importanti che cambiano lo stato delle cose. Noi siamo quel tipo di cittadino che è stato trasformato negli anni in utente televisivo che periodicamente va a votare, a scegliere il meno peggio e quindi che non ha nessuna, secondo il mio parere, nessuna veste di cittadinanza, perché il cittadino dovrebbe essere quello attivo che in qualche modo contribuisce a migliorare e a cambiare la vita di tutti, invece il cittadino oggi si chiede ma cosa posso fare? Quindi come Invicta Palestina siamo una pagina molto seguita, abbiamo all'incirca 30.000 persone che seguono e leggono le nostre notizie, Sicuramente ci atteniamo a quanto ci dicono i palestinesi. I palestinesi ci dicono solo semplicemente raccontate cosa ci fanno, raccontate cosa viviamo tutti i giorni, raccontate la nostra quotidianità e noi ci limitiamo a fare questo perché è la cosa più importante. Chiaramente non è che ci pieghiamo alla censura. Ma di volta in volta cerchiamo sempre il modo più efficace per far conoscere questa situazione, rimanendo sul tema di apartheid, che è la denuncia più importante che si possa fare oggi. Vi dico anche che abbiamo fatto stampare in modo centralizzato lo stesso manifesto in altri formati. Questo manifesto viene distribuito gratuitamente con questo tesoretto che abbiamo accumulato grazie a decine di persone, perché è la cosa da tenere presente, da dire anche nella vostra trasmissione, che la campagna è stata autofinanziata, quindi tramite Satispay, tramite bonifico bancario, tramite PayPal. Noi abbiamo ricevuto contributi dai 10 euro, dai 5 euro, anche a contributi, diciamo, economicamente più rilevanti. Abbiamo ricevuto persino un contributo unico di 1.500 euro, perché era questo il costo, dell'esposizione dei manifesti per 10 giorni, per 15 giorni in una città. Quindi un cittadino italiano ha detto bene, una città per un'esposizione voglio in qualche modo finanziarla al 100%. E poi c'è anche qualcuno che ci ha scritto dicendoci e sottolineando i 20 euro dati da Tizio e Caio valgono più dei miei 150 euro, dei miei 200 euro, perché so che questa persona che ha mandato 10 euro è una persona che è stata in carcere, è una persona che ha sofferto ed è una persona che in qualche modo le ha tolti a se stesso, le ha tolte alla sua famiglia. Perché ha creduto in questo lavoro che state facendo. La campagna su questo argomento è una campagna efficace. Qui a Firenze hanno scritto articoli sui giornali, ci sono state polemiche di ogni genere. Quindi il successo c'è stato. Da voi anzi, ancora di più perché la cosa ha fatto il giro del mondo. Quindi su questo argomento occorre insistere. Voi non mollate e noi neanche non molleremo. Ti ringraziamo, Rosario. Ok, grazie a voi per l'impegno verso la Palestina. Da parte nostra possiamo affermare con certezza che non, con uno spirito partigiano, perché noi amiamo la lotta partigiana che ci ha liberati dal nazifascismo, noi con la stessa mentalità lottiamo tutti i giorni per liberarci di questa occupazione illegale, condannata con sanzioni, diciamo, da tutti gli organi, da tutti gli organi importanti che si occupano di diritti umani, ce ne occuperemo con tutte le forze senza lasciarci piegare dalla censura. Thank you.